Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione, sempre più giovane e sempre più motivata da una voglia di fuga dall'Italia. È la nuova emigrazione dal bel paese che vi spiegheremo nell'intervista che apre il notiziario. Leadership è la parola d'ordine quest'oggi, una leadership positiva e inclusiva che troppo spesso manca all'interno dei nostri luoghi di lavoro, demotivando i migliori a restare. Ma che classe dirigente abbiamo? Toccheremo l'argomento raccontandovi la storia di una trentenne che lavora in Belgio nel settore della comunicazione e vi porteremo pure a Berlino per esplorare la nuova Mecca della nostra giovane migrazione. Ma torniamo alla storia della settimana. Posso testimoniare che almeno nel mio caso non c'è stato bisogno di conoscere nessuno, era una perfetta sconosciuta e i miei futuri colleghi erano allora dei perfetti sconosciuti per me. Quanti anni avevi all'epoca? 25. Ilaria Conti, 30 anni, è Policy and Communication Associate a Bruxelles per EFET, la Federazione Europea dei Traders dell'Energia. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. È un'immigrazione sempre più giovane quella italiana all'estero, come certifica l'ultimo rapporto Italiani nel Mondo presentato martedì dalla Fondazione Migrantes. 4 milioni e 115 mila i nostri connazionali all'estero ed è indubbio che la voglia di fuga stia crescendo esponenzialmente. Delfina Licata, curatrice del rapporto. Riscontriamo una sempre più presente femminilizzazione della comunità italiana dei residenti all'estero. Aumentano le nascite all'estero, aumentano i celibi e i nubili, aumentano in valore assoluto le classi di età centrale, quindi tra i 18 e i 40 anni, che significa giovani in età da formazione o anche in piena età di lavoro, significa che lo scenario ci porta sempre di più ad una comunità di cittadini italiani all'estero che si sta svecchiando. C'è nuova linfa, nuove generazioni. Voi parlate di una nuova generazione di fenomeni e di una crescente attrattiva dell'estero sui giovani italiani. Aumenta sempre di più questa voglia di estero, addirittura il 40% della popolazione italiana si trasferirebbe all'estero per sfuggire alla precarietà lavorativa in primis, economica in secondo. Diciamo di questo 40% sono soprattutto i giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Ecco che il lavoro, comunque il non avere lavoro, è quello che più spinge insomma a cercare altrove una situazione migliorativa. Una cosa veramente molto interessante riguarda l'abbassamento dell'età anagrafica degli studenti che decidono di andare all'estero. Emerge questa nuova tendenza degli studenti liceali che scelgono appunto di frequentare 3 mesi, 6 mesi o un intero anno scolastico in un paese lontano dall'Italia. Nel 2010 risultano 4.200 studenti. Rispetto agli anni 70 il tasso di occupazione degli under 25 si è dimezzato, mentre la disoccupazione è triplicata. Oltre il 70% gli inattivi, quasi il 15% in più rispetto al 1971. Lo stipendio di un under 30 supera di poco gli 800 euro. Lo afferma uno studio Data Giovani per il Sole 24 Ore e sempre per Data Giovani oltre 200.000 giovani sono spariti dalle statistiche sulle contribuzioni fiscali per effetto della crisi. In Italia chi cerca lavoro dopo il diploma di maturità ha maggiori possibilità di trovare un impiego rispetto a chi è laureato, lo conferma l'ISFOL, secondo cui i laureati riescono a vantare maggiori possibilità di impiego solo dopo i 35 anni. L'investimento nella laurea, conclude l'ISFOL, paga meno sia rispetto al passato sia rispetto agli altri paesi europei. E così accade, come spiega Eurobarometro, che la laurea non rappresenta più un'opzione attraente per il 38% dei giovani italiani, la percentuale più elevata in Europa. Solo il 3% dei nostri laureati è straniero. Laureati ma non iscritti all'albo, secondo dati del MIUR, in 5 anni gli aspiranti professionisti sono diminuiti del 24%, 35.000 laureati in meno hanno deciso di non tentare la strada dell'albo. A far registrare la diminuzione più significativa gli agronomi, poi architetti e ingegneri. Giovani talenti di successo in Italia e all'estero sono i protagonisti della quarta edizione di Young Blood, annuario sul meglio del talento italiano, 200 storie di giovani premiati nei settori della creatività. A Giovani Talenti Laura Bisotti, 26 anni, pittrice, vincitrice del premio Celeste, anche lei sta per lasciare l'Italia. In Italia ancora sto cercando di capire quali siano i canali giusti, faccio ancora un po' fatica, per me è ancora un po' presto forse per capire se in Italia ho o meno delle possibilità, vedremo. E all'estero? In Spagna ho trovato grande facilità, sono stata molto contenta. Adesso partirò per Londra a settembre. Quindi lascerai l'Italia, perché? Vado con un'altra borsa di studio, quindi andrò a lavorare sicuramente per un mese e poi vedrò, poi non lo so, l'idea è possibile rimanere anche là un po' più tempo. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un Senior Finance Officer all'International Center for Transitional Justice di Bruxelles, scadenza per i CV 30 giugno, info su ictj.org. Un capo delle risorse umane all'International Institute for Democracy and Electoral Assistance di Stoccolma, scadenza per i CV domani, info su idea.in. E infine un fisico specializzato in medicina nucleare all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di Vienna, scadenza per i CV 18 luglio, info su recruitment.iaea.org. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta nella capitale d'Europa, Bruxelles, da diversi anni uno degli approdi lavorativi esteri più battuti dai nostri giovani. Nome: Ilaria. Cognome: Conti. Età: 30. Città di origine: Montecatini Terme. Studi: Scienze della comunicazione. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2005. Per andare dove? Bruxelles. Perché? Per uno stage di 3 mesi. Quale lavoro svolge attualmente? Policy and Communication Associate. Dove? EFET, un'associazione industriale europea nel settore dell'energia. Tornerai? Lo spero un giorno, ma non a qualunque costo. L'inno europeo per introdurre la storia di Ilaria Conti, che da ormai 7 anni vive e lavora stabilmente nella capitale dell'Unione, Bruxelles. Ilaria, c'è un aspetto nella tua email a giovanitalenti@radio24.it che colpisce subito l'attenzione. Tu scrivi: la parola d'ordine qui in Belgio è serietà. Nonostante l'ambiente sia competitivo, le regole del gioco sono chiare, basate per il 90% sulla meritocrazia. Questo ti spinge a impegnarti di più perché sai che i tuoi sforzi sono apprezzati. E poi arriva la parte più interessante. Qui ho capito cosa significa essere un buon capo, avere leadership, non insomma l'atteggiamento gerarchico che conta, ma quello basato sulla collaborazione. Ci fai capire la differenza fondamentale, che forse qui in Italia abbiamo ancora qualche problema a comprenderla? Collaborare secondo me significa lavorare insieme agli altri colleghi con convinzione, in vista di un risultato che porti vantaggi economici o meno per tutti. Invece quando abbiamo una struttura fortemente gerarchica, chi è in basso ha l'impressione di lavorare in vista di un qualcosa che però porta dei vantaggi solo a chi è in alto. Torniamo a parlare di questo tra poco, prima però cominciamo con la tua storia. Scegli all'Università Scienze della Comunicazione, una carriera molto in voga in questi ultimi anni, perché? In realtà quando ho scelto Scienze della Comunicazione erano usciti soltanto pochi laureati, ero incuriosita, ma il mio istinto mi diceva che ci sarebbe stato spazio per queste nuove figure, quindi credo di aver scelto un po' per passione e un po' anche per incoscienza. E nel corso della carriera universitaria c'è spazio anche per un Erasmus, la definisci un'esperienza straordinaria che ti spalanca la mente, un intero semestre in Svezia, e cosa scopri non appena varcato il confine? Tra le tante differenze che ho scoperto, mi ricordo che rimasi sbalordita dal modello di insegnamento interattivo fra docenti e studenti all'università. Classi piccole con massimo 15 persone. Ti laurei nel 2004 con un bel 110 lode, e allora che bilancio dai a posteriori della tua esperienza universitaria? Positivo. Certo, l'università in Italia a volte somiglia più a un percorso di sopravvivenza a ostacoli, però se si riesce a tenere duro, alla fine ci si ritrova con un pezzo di carta che non è soltanto un pezzo di carta. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. E per dirla con caparezza, goodbye malinconia, a un certo punto te ne vai, lasci questo paese. Pochi mesi prima della tua laurea vinci il bando del Ministero Affari Esteri e della Conferenza dei Rettori delle Università per la mobilità degli studenti presso le rappresentanze diplomatiche. È probabilmente il destino a portarti in quella che poi diverrà la tua città di espatrio, Bruxelles. Allora perché tenti la strada diplomatica, ma soprattutto come riesci a ottenere il posto? Tramite bando MyCrew e esclusivamente su base di merito. Il Ministero mette a disposizione alcuni posti di stage presso le rappresentanze sparse un po' in tutto il mondo e poi le università valutano le domande ricevute dagli studenti. La selezione è fatta sulla base del percorso di studi, numero e voti degli esami. E subito dopo la laurea il secondo stage, ancora una volta a Bruxelles, quasi come se fosse il destino a farti restare lì, un gradino più su stavolta, ufficio ONU, stage non retribuito, tu esiti un po' se accettare o meno, alla fine dici ok, e ti pentirai di questa scommessa alla fine? No, assolutamente, l'esperienza all'ONU è forse quella che mi ha dato di più, sia dal punto di vista personale che professionale, anche perché poi è stata fondamentale per trovare il mio primo lavoro vero. Infatti arriviamo alla fine del 2005, leggi di un'apertura all'EFET, la Federazione Europea dei Traders di Energia. In due parole, cos'è l'EFET e quali aziende ne fanno parte? È un'associazione un'associazione no profit che raccoglie circa 100 aziende europee, sia grandi che piccole, che sono impegnate nel commercio di energia a livello europeo. Che tipo di posizione offriva l'annuncio, ma soprattutto come si è svolto il colloquio? All'estero serve conoscere qualcuno per trovare lavoro? La posizione è per funzionario junior dell'associazione e no, posso testimoniare che almeno nel mio caso non c'è stato bisogno di conoscere nessuno, era una perfetta sconosciuta e i miei futuri colleghi erano allora dei perfetti sconosciuti per me. Alla fine del periodo di prova ti offrono il posto di Communication Officer, responsabile unica di tutte le attività di comunicazione. Quanti anni avevi all'epoca? 25. E la domanda che tu stessa ti poni è: ma quando mai in Italia? Quando mai tu avresti potuto ottenere un incarico del genere, pur giovane e donna? Allora, eri un'eccezione in quel contesto? Non credo di essere stata un'eccezione, sono di molti altri esempi simili. Credo che un grande punto di forza, di lungimiranza da parte dei datori di lavoro stranieri consiste proprio in questo, nel vedere le potenzialità che si nascondono in nuce nei giovani, vengono considerate insomma delle grandi risorse. Fosse così anche qui, col tempo progredisci professionalmente, attualmente sei Policy and Communication Associate. In cosa consiste il tuo lavoro? Fornisco consulenza alle aziende associate che sono interessate a questo o quel mercato. Diciamo che ne seguo in particolare lo sviluppo dal punto di vista economico e regolatorio. Tu parli nella tua email a giovanitalenti@radio24.it l'area di meritocrazia. Allora, cos'è la meritocrazia che hai sperimentato all'estero? La meritocrazia si vede già a partire dal processo di selezione o anche addirittura prima, dal modo in cui sono costruiti anche i bandi, gli annunci di lavoro. I criteri meritocratici che vedo tutti i giorni sono veramente molto semplici: chi lavora, chi si impegna va avanti. Torniamo a parlare del concetto di leadership. In Italia appare spesso gerarchica, questo lo dice il capo, questo lo impone il capo, quel capo e magari poi si trova in una posizione che non si è mai veramente meritato. All'estero questo atteggiamento, diciamolo pure da caserma, viene meno. Tu parli di esempio, coinvolgimento, motivazione, gratificazione. Quanto questi ingredienti rendono un luogo di lavoro produttivo, innovativo e giovane? Secondo me questi sono atteggiamenti che sono alla base del successo di un'azienda, di un'organizzazione, di qualunque cosa, perché è solo tramite l'esempio, tramite il coinvolgimento, la motivazione, la gratificazione che le persone si sentono in qualche modo parte di una squadra, con risultati ovviamente potenziati, moltiplicati. Ilaria, domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Credo che abbiamo tutte le potenzialità per diventare un grande paese in cui si lavora anche molto bene. Credo che dovremmo cercare veramente di riportare anche quello che abbiamo imparato per cercare di migliorare il nostro paese, che se lo merita. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Ilaria Conti, trentenne Policy and Communication Associate a Bruxelles per EFET, la Federazione Europea dei Traders di Energia. Ilaria è approdata nel cuore dell'Europa subito dopo la laurea grazie a due stage. Queste prime esperienze le hanno fornito la giusta formazione e le giuste competenze per affrontare un colloquio con la sua attuale associazione, per la quale si è trovata a soli 25 anni a gestire tutte le attività di comunicazione. Con gli anni le responsabilità lavorative sono poi cresciute e da Bruxelles Ilaria osserva con una certa dose critica la capacità di leadership della nostra classe dirigente, confrontandola con una situazione all'estero spesso diversa. Ed è qui con noi Paola Faragasso, Public Relations and Communications Manager per la multinazionale Lexmark, sede di Milano. Buon pomeriggio Paola. Buon pomeriggio. Allora Paola, tra te e Ilaria c'è praticamente una generazione di mezzo. Quanto è cambiata l'Italia secondo te in termini di opportunità per i giovani e per le donne nel decennio che vi separa? Io credo che in questo momento storico i giovani abbiano maggiore difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro in generale. Se penso a quando sono entrata in Lexmark alla fine degli anni 90, nello specifico nel segmento dell'Information Communication Technology, era un mercato in evoluzione, in completo boom, e quindi c'erano maggiori opportunità. Oggi, per le ragioni che sappiamo, la crisi internazionale contingente, una situazione in Italia un po' instabile dal punto di vista economico o politico, diciamo che i giovani fanno veramente più fatica. Ed è veramente un peccato. Brevemente la tua storia: laureata in lingua allo IULM di Milano, dove hai frequentato anche un master in relazioni pubbliche, sei approdata in Lexmark addirittura prima della laurea, fine anni 90. Come ci sei arrivata e per fare cosa? Sono venuta a conoscenza di una ricerca da parte di Lexmark di una posizione per assistenza all'amministratore delegato e ho mandato il mio curriculum e sono stata ricevuta per un colloquio. Ai tempi non ero ancora laureata, mi ricordo che mi mancavano tre esami e la tesi, quindi ho dovuto poi conciliare studio e lavoro, che è sempre faticoso. All'epoca ancora ce la si poteva fare. Ce la si poteva fare, sì. Ora è difficile. Tu riconosci l'importanza della visione e del respiro internazionale all'interno della tua realtà. Ti faccio allora una domanda provocatoria. In Italia carriere di un certo tipo si possono fare solo nelle multinazionali? Tu andresti a lavorare per un'impresa solo italiana, magari medio piccola? Io penso che comunque nelle multinazionali, nelle grandi corporation, ci siano più opportunità di crescita, essendo le stesse organizzazioni complesse, ben strutturate a tutti i livelli, quindi ci sono più probabilità. Non credo che percorsi esponenziali non si possano fare anche nelle aziende italiane, dipende dalle aziende italiane. Credo che comunque, se da un lato noi sappiamo che il limite dell'Italia è il fatto che ci siano queste piccole e medie aziende, noi sappiamo che magari c'è anche una conduzione padronale all'interno di queste realtà e quindi molto spesso può essere più difficile. Per i giovani. Però è vero anche che ci sono delle realtà in cui gli imprenditori valorizzano i talenti e quindi, anche trovandosi in realtà più piccole, poi questi talenti sono proprio portati fino al raggiungimento di grandi posizioni. In un'email a giovanitalenti@radio24.it parli dell'importanza della globalizzazione, che ha reso le lingue, la capacità di comunicare e il confronto con l'estero vitali. Allora, questo comincia a percepirlo in Italia? Stiamo uscendo finalmente da questa nostra dimensione provinciale, spesso messa anche alla berlina dai nostri professionisti espatriati, o c'è ancora molta strada da fare? Secondo me c'è ancora molta strada da fare, sono d'accordo con Ilaria, finché non si afferma totalmente il principio della meritocrazia rimaniamo ancora pervasi da questo alone di provincialismo. L'assenza di meritocrazia da un lato mina gli stimoli delle giovani leve, dall'altro lato ovviamente va a scapito della qualità del lavoro. Tu sei mai stata tentata dall'espatrio? Sì, certo. L'estero comunque offre molte opportunità, sia in termini remunerativi, c'è maggior rispetto della professionalità delle donne e ovviamente anche migliori condizioni di lavoro. Grazie a Paola Faragasso. E per chiudere, domanda diritto a Ilaria Conti. Allora, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Io consiglio sempre di trovare il proprio percorso, cioè di sviluppare quelli che sono i propri interessi, cercando di puntare veramente in alto, cioè capire dove sono i punti di eccellenza e cominciare puntando a quelli. Siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi torniamo ad aprire la nostra finestra sul network di Italians Online, la più grande comunità virtuale e non di espatriati italiani. Andiamo in Germania per raccontarvi una delle città che più stanno calamitando in questi anni i nostri giovani. Alessandro Sala, amministratore di Yol Berlino. Yol Berlino nasce 6-7 anni fa. Quanti iscritti ci sono adesso? Adesso siamo circa 500. Anche perché Berlino è una delle nuove capitali di espatrio dei giovani professionisti, sì, italiani, però è una città un po' particolare, soprattutto nel tipo di professioni che vengono a fare. Noi lo vediamo perché riceviamo un sacco di richieste, di informazioni da parte di persone che hanno in mano una professione piuttosto esotica, cioè non c'è il solito ingegnere oppure professionista, ma per farti degli esempi, non so, degli sceneggiatori, maestri d'asilo ad esempio, o altre cose anche molto più artistiche, perché Berlino adesso è una delle capitali della cultura europea. E da cosa si scappa? Dall'inefficienza, perché Berlino è molto aperta, molto cosmopolita, però è ben organizzata, quindi si trovano un sacco di cose che hanno veramente appeal rispetto alla situazione italiana, perché c'è l'organizzazione e c'è il movimento. E quando anche lavoro si trova, immagino poi sia anche diverso rispetto a quello che si trova in Italia. Sì, beh, il welfare tedesco è potentissimo, insomma, un ordine di grandezza sopra il welfare italiano. Anche come dinamicità lo vedi, perché se sei abbastanza bravo nel tuo lavoro puoi anche cambiare velocemente professione senza poi rimanere disoccupato tantissimo tempo. Quali sono le principali attività che organizzate come sezione? Cerchiamo di fare degli incontri tipo cene oppure qualche incontro culturale. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansonline.net, sezione Berlino.